Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 18 gennaio, bentornati di nuovo o benvenuti se siete nuovi a tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. E io sono sempre Caterina Bombarda, qui con voi, con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E auguri anche a te, anche a noi e anche a tutti i nostri teleradioascoltatori, perché oggi è esattamente un anno da quando il 18 gennaio del 2021 è iniziata l'avventura di Liberi Dentro Eduradio in maniera veramente strutturata come la conoscete voi oggi, ecco, con puntate che vanno in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, sulla radio, sulla televisione, appunto con me, con Antonella, con Ignazio all'inizio, ma però ci sono stati anche tanti, tanti cambiamenti, vero? Sì, ci sono stati tanti cambiamenti, ricordiamo anche le tante associazioni che partecipano al nostro programma, senza di loro non sapremmo proprio come fare, quindi ringraziamo tantissimo chi si è preso l'impegno di continuare con noi e lo facciamo con molta energia e con molta gioia. E in più, scusami, abbiamo avuto delle new entry, Caterina, Eh dillo sì, tu. a cominciare da Paola Leotti, che è un giornalista che a Milano, al carcere di Bollate, fa teleradio reporter. Anni fa era anche un giornalista della RAI molto molto conosciuto e ci sta aiutando anche lui per Liberi Dentro Eduradio TV con rubriche di approfondimento. E poi abbiamo una tirocinante che è Diana Bota, che ci aiuta anche lei nella costruzione del programma, il nostro Enea Flacco che è il montaggio delle nostre puntate. E poi chiaramente la grande novità è che finalmente siamo riusciti a mettere un piede in carcere già da settembre. Entriamo una volta alla settimana, anche noi svolgiamo i colloqui, ascoltiamo i detenuti, soprattutto li conosciamo perché sono i nostri amici di Eduradio e quindi tanti cambiamenti, sì, davvero. Ma passiamo alle notizie di oggi. Leggo questa notizia da Il Riformista, mi ha colpito, a firma di Don Vincenzo Russo, che è il cappellano del carcere di Opera a Milano. Aiutiamo chi vuole rialzarsi, la vendetta non è cristiana. Mi ha colpito perché lui sostiene quello che forse Antonella è anche un nostro personale convincimento come redazione, che per noi siamo educativa, ecco, a carattere educativo e informativo. Ovviamente in distanza all'inizio, ma anche vicina alle persone che vogliono rialzarsi in vista di un reinserimento in società. Scrive Don Vincenzo Russo, cappellano del carcere di Opera: c'è un pensiero comune, diffuso, popolare, secondo il quale le dure condizioni di vita in carcere sono inevitabili, anzi giuste, poiché parte integrante della pena che deve colpire chi si è macchiato di un crimine. È un'idea di riparazione come contrappasso. Tu hai fatto soffrire, tu devi soffrire nello stesso modo, anzi di più. Solo così la vittima può avere soddisfazione per il torto subito. Ecco, secondo il cappellano del carcere di Opera, questo principio, che poco si differenzia da quella vendetta cosiddetta, si accompagna a un altro mantra giudiziario, che è quello della certezza della pena. Quindi, se volessimo fare una traduzione molto poco libera, certezza della pena significa che il reo deve pagare fino in fondo, fino a soffrire, come previsto dalla condanna. È una vendetta? Esatto, sì, secondo questa logica non ci dovrebbero essere sconti di pena, nessuna possibilità alternativa e così la condanna da cui tutto ha origine diventa una sorta di giudizio molto pesante sulla persona. E questa constatazione del cappellano del carcere di Opera manifesta anche una certa indignazione che leggo tra le righe, siccome lui ritiene che questa sia una visione che si fonda su una prospettiva totalmente capovolta della realtà. E lui quindi ha fatto sua una prospettiva ribaltata che per lui chiaramente è profondamente cristiana, per me dovrebbe essere profondamente umana, non solo ascrivibile a una religione, ovvero il fatto di dare una speranza, cioè chi ha commesso un errore ed è caduto deve potersi rialzare e deve trovare una mano che lo aiuti a risollevarsi. E dice questo facendo sua anche le parole di Papa Francesco qualche tempo fa, rivolte proprio alle persone recluse: le carceri abbiano sempre una finestra sull'orizzonte. Nessuno può cambiare la propria vita se non vede un orizzonte, ha detto il Papa. E quindi l'invito di Don Vincenzo Russo è che queste finestre vadano riaperte sul mondo, quelle delle carceri, affinché diventino possibili spazi relazionali di vita. Bisogna fare in modo che chi vive questa esperienza della detenzione alla fine del percorso non si trovi nello stesso tragico punto da cui era partito. Queste sono le parole accorate del cappellano del carcere di Opera, ma subito una canzone lanciamo, siamo sempre con The Weeknd questa settimana. Questo brano con Swedish House of Mafia and The Weeknd si chiama Most of Flame ed è famosissimo. La dedico questa canzone a Donald e a Paolo, che sono due amici dal carcere d'Otta di Bologna. Eccovi, bentornati, siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. Dopo la pausa musicale siamo con te, Antonella, e apriamo una finestra sul mondo dal Nepal, vero? Sì, parliamo di un grande scalatore, uno dei più grandi scalatori che attualmente esista, che si chiama Nirmal Purji. Ho letto questo articolo sul Financial Times. E questo scalatore è eccezionale, è nato, come dicevi, in Nepal, in un villaggio del Nepal, e ha fatto il soldato nelle forze speciali britanniche e a 30 anni ha scoperto di avere un grande talento per l'alpinismo e ha battuto tutti i record mondiali. Ma è interessante, però siccome io nemmeno lo conoscevo ancora, non mi sembra così noto ancora, vero? Sì, perché noi ci ricordiamo soltanto di Messner in realtà, perché siamo molto più vicini, diciamo, territorialmente. Però intanto ti dico che Nirmal Nims Purja è un ex soldato delle forze speciali britanniche, un veterano di molti conflitti a fuoco, un uomo a suo agio con il paracadutismo, lo sci, le immersioni subacquee, insomma sa fare un po' di tutto. E da quando ha lasciato l'esercito nel 2019 ha scalato poi alcune delle vette più alte della Terra e ha lasciato a bocca aperta molti degli alpinisti più esperti, compreso Messner ovviamente. Prima ha scalato le 14 montagne di 8.000 metri che ci sono nel mondo, abbassando il record mettendoci soltanto 7 mesi. E poi all'inizio del 2021 ha completato la prima ascesa invernale del K2, la cosiddetta montagna selvaggia, un'impresa che aveva resistito addirittura a vari tentativi per 33 anni. E nonostante un vento di 120 km, Caterina, che è un vento fortissimo, e una temperatura di 60 gradi sotto zero, ci è riuscito al primo tentativo senza neanche usare le bombole d'ossigeno. Quindi lui è una vera forza della natura, però approfondiamo un attimo, quanti anni ha? Purgia ha 38 anni ed effettivamente un uomo che direi più che in ottima forma, perché veramente è un fenomeno della natura. E sulla sua esperienza è stato girato un film che si chiama 14 vette scalate al limite del possibile, che tra l'altro penso che in questo periodo sia su Sky. E il film racconta la storia del Project Possible di Purgia, il progetto che l'ha portato a raggiungere le 14 vette sopra gli 8.000 metri. E tieni presente che in generale scalare uno di questi giganti comporterebbe una spedizione di 2 mesi. E fare tutti in circa 7 mesi è un'impresa veramente unica, lo dice lo stesso Reinhold Messner, il padrino delle scalate in alta quota e il primo uomo a raggiungere tutte le vette di 8.000 metri. È una storia emozionante, ma anche solo una parte di un viaggio forse più incredibile, che porta dalla povertà del remoto villaggio di Dan nel Nepal centrale all'acclamazione durante la prima cinematografica a New York. Pensa, Caterina, che il padre di Purgia e due dei suoi fratelli erano già nei Gurkha, l'unità dell'esercito britannico composta appunto da soldati nepalesi, e lui voleva seguire un po' le loro orme. Nel 2003 ha superato le lunghe prove di selezione, che includevano corsa attraverso le colline dell'Himalaya portando un cesto di vimini pieno di sabbia, e l'anno dopo, 20 anni, si è trasferito poi nel Regno Unito. Lì ha cominciato ad allenarsi e faceva parte della fanteria dell'esercito nello Yorkshire, dove doveva lottare per abituarsi al clima, fondamentalmente molto diverso dal Nepal ovviamente, no? Al vento, alla pioggia, faticava anche a capire i vari accenti delle reclute provenienti dalle varie parti del Regno Unito. E poi ha fatto anche 9 mesi nel Kent a fare l'imbianchino. Quindi ha un'esperienza veramente molto ampia, e solo a 29 anni le montagne sono entrate nella sua vita. All'epoca aveva superato un'altra selezione per entrare nel corpo dell'Elite Special Boat Service, ed è il primo Gurkha a farlo, e aveva iniziato a fare trekking nel campo base dell'Everest. E il trekking poi è stata una rivelazione, da quel momento in poi ha cominciato a scalare. La prima scalata è stata Lama Ada Blam, e da allora in poi ha appunto sfruttato ogni opportunità per fare alpinismo. E appena 18 mesi dopo la prima scalata ha raggiunto la cima del Daulagiri, la 7ª vetta più alta del mondo. 2 anni dopo, penso un po', ha cancellato una vacanza nel Mediterraneo che aveva prenotato con la moglie, ha preso in prestito circa 15.000 sterline fingendo che fossero per un'automobile ed è partito per l'Everest da solo. Più scalava e più capiva di essere in grado di acclimatarsi, e che questo era il suo vero superpotere in alta quota. E quindi, pur non essendo un Sherpa, ha portato sulle vette l'orgoglio nepalese, perché lui dice: si parla molto di scalate, ma si parla poco di chi non è, diciamo, occidentale e che raggiunge grandi risultati. E continuiamo, Caterina, con Adele, perché vorrei farvi ascoltare Rolling in the Deep, un album del 2011. E poi seguirà l'intervista a Nicoletta Nicolini, volontaria ACO. Cheating, a fever pitching, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing. The scars of your love remind me of a E rieccovi, bentornati sempre a tutte e tutti, siamo sempre su Liberi Dentro Edu Radio e TV e proseguiamo la nostra trasmissione con l'intervista all'ospite di oggi che sarà con noi fino a venerdì. L'ospite è Nicoletta Nicolini, volontaria AVOC, una volontaria ormai veterana perché fa questa attività di volontariato già dal 1984 e cominciò quando il carcere si trovava ancora a San Giovanni in Monte, quindi nel centro storico della città di Bologna. Ma parliamo intanto della tua storia, Nicoletta, raccontaci tu come mai hai scelto il carcere come impegno di volontariato. È successo per caso, diciamo. Ero con un'amica all'università e lei mi parlò con tanta passione della sua tesi sul reinserimento dei carcerati allora, e che il carcere mi entrò dentro, ecco. E dopo un po' di tempo vidi un articolo su un bollettino diocesano della comunità del Baraccano che invitavano a questo tipo di servizio, diciamo, e io che ce l'avevo dentro. Mi sentii quasi chiamata, no? Era un invito che veniva fatto a me e risposi di sì. E ancora oggi continuo ad andare, anche se così sono, mi sono appesantita, sono invecchiata, insomma, vado sempre lo stesso tragitto, no? Attraverso quei cancelli, quei corridoi, altri cancelli, e anche se ho così un po' il fiatone, i capelli grigi, però ecco, questo tragitto mi porta sempre al cuore di quel sì a cui sono rimasta fedele, che è l'incontro con la persona. E ho dentro tante persone con le loro storie, con i loro nomi, con i loro sorrisi, con il loro volto. Me li porto proprio dentro. Ma tu, Nicoletta, a San Giovanni in Monte stavi in un ufficio per l'accoglienza dei familiari. Cosa facevi? In che cosa consisteva la tua attività all'inizio? Io ero alle prime armi proprio. Mi ricordo che entrai in questo mondo proprio incontrando i familiari che venivano di lontano. Mi ricordo tanta sofferenza, no? Soprattutto i genitori che venivano e ti raccontavano nelle lunghe attese, ti raccontavano la storia dei loro figli anche con le lacrime agli occhi. Facevano tanti chilometri, erano carichi di pesi, di preoccupazioni. E per me sentire tutta questa sofferenza fu come un aprirmi un mondo, non so come dire, però c'avevo vicino, che mi ha molto aiutato, il cappellano di allora, Don Giuseppe, che era un cappellano benvenuto da tutti, proprio mite, gentile, e Suor Teresa, una suora vulcanica, erano tutti e due della comunità del Baraccano, e con loro veramente sono stati per me come dei maestri. Poi con loro sono entrata per le messe, così, e soprattutto ad accompagnare un'amica che era non vedente, per cui aveva il compagno all'interno e lui gli scriveva lettere tutti i giorni, lunghe lettere, io gliele leggevo, e fu proprio lui che in 11 pagine fitte, fitte, ci narrò proprio l'evasione dal carcere di San Giovanni in Monte di un gruppetto di detenuti che avevano fatto un foro nel soffitto della chiesa adiacente ed erano evasi. Quindi da lì ci fu il trasferimento quasi immediato alla Dozza, nella periferia di Bologna. Quindi dal cuore di Bologna il carcere è stato portato nella periferia, come se fosse allontanato. Invece il carcere è e deve essere parte della città, anche se per molti viene tenuto, è quasi una rimozione, no? Però per me è proprio importante che anche che la città entri, conosca questa realtà che fa parte di lei. Sì. Alla Dozza, tra l'altro, quando il carcere si è trasferito poi da San Giovanni in Monte appunto alla Dozza di Bologna in piena periferia, hai cominciato con l'attività del Cineforum insieme a tuo marito. In che cosa consisteva? Cosa facevate? Sì, il Cineforum. Iniziamo, abbiamo avuto in 224 l'articolo 17 per poter entrare e la domenica pomeriggio andavamo al femminile per la proiezione di un film. Percorso sempre lo stesso, quello di oggi, non è cambiato molto. Entravamo in questa saletta, preparavamo, mio marito montava la pellicola che portavamo da fuori e aspettavamo. Arrivava si sentiva il vociare, il rimbombo di lontano delle detenute che arrivavano. No, abbracci, baci, saluti, poi la proiezione del film. Dopo la proiezione c'era la discussione ed era spesso uno scontro abbastanza duro perché si trovavano detenute di destra e di sinistra, politiche di destra e di sinistra, per cui agli antipodi. Però la cosa che io ricordo molto bella è che insieme scelsero due libri e ce li regalarono come dono per il nostro matrimonio, perché nel frattempo noi andavamo prima come fidanzati, poi come marito e moglie, poi sono nati figli, ma abbiamo sempre continuato, siamo stati fedeli a questo appuntamento domenicale, che per loro era tanto, ecco. Bella, bella storia. E sono finiti i nostri minuti anche per oggi, però c'è una canzone, vero, che vogliamo lanciare alla fine della nostra puntata. Abbiamo Battiato con La Cura, una canzone che hai scelto tu, e noi però ci rivediamo domani. Grazie Nicoletta, a domani. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, Rieccovi, siamo sempre giunti ai saluti di fine puntata anche oggi. A seguirci sarà la rubrica l'intervista, ecco, al garante regionale dei detenuti Marcello Marighelli. Quindi ascoltatelo, è un'intervista importante che vi riguarda e ci riguarda. E come al solito un saluto grandissimo da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, dal nostro Enea Flacco, Diana Bota e da Paolo Aleotti. Ci rivediamo domani, scriveteci redazione Liberi Dentro, @gmail.com. Ciao! Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.